letto troppo grande per questo poco amore. Noi due che andiamo a fondo in un televisore. Eppure fino a ieri parlavamo. E tutti i miei pensieri ti nascondevi con la tua mano ed io dentro gli occhi tuoi. Mi sentivo un angelo, ma poi ci vuole un attimo per perdersi e non trovarsi più per secoli, sentirsi inutili come fiammiferi in questo fuoco che ti brucia l'anima e non si spegne, sai, lasciandosi. Se adesso te ne vai, io senza te sarò invivibile come una rondine in un'America di solitudine. Con un altro tu saresti mia, perché l'amore è difficile come un miracolo e per riperderlo ci vuole un attimo. E dopo la tempesta che sorte fuori il sole. E se qualcosa resta è il succo dell'amore. Allora basta un piede che sfiora un piede e ci si ride su. Mi avvicino un po' e so che tu non dici no, ci vuole un attimo per perdersi e non trovarsi più per secoli, come due angoli, come due nuvole, come due alberi, due latitudini. Ci vuole un attimo per perdersi e fare cenere e fare Chernobyl di questo amore che ci fa resistere, ci fa morire e poi ci fa rivivere. Ma basta un attimo per crederci, come due aquile difendersi, finché l'amore sia l'irraggiungibile, un nido fra i ghiacciai. E tu rinascerai amandomi ed io rinascerò dentro di te. Saremo liberi, quasi invisibili, però sorridimi, ora sorridimi. Ci vuole un attimo, un attimo. Un attimo, però sorridimi, sorridimi, ora sorridimi, sorridimi. Ma ricordiamoci che per riperdersi ci vuole un attimo.